Se tu vens casutas cretis, la che lor mi ansoterà, ale un splaz plen di stelutis, dal mio sang l'estat bagnà. Par segnal une crosute gli escolpi dell'ital cret, fra che stelis nas l'erbute, sod di lor io duar cuie. Chiol, su, chiol une stelute, che riguardi il nestri ben, tu i daras ne bussadute e po platile in tal sen. Quante a chiase tu se sole e di cur tu preis par me, il mio spir a torti svole, io e la stele possin con te. Thank you. se il dolor che lo guardava sulla mon sacre ai fedei, il furlan a Dio contava nell'engaz dai nestri sviei. Un sol scrupula i restava di potesse vi esaudì, che il Signor che lo ascoltava in furlan lo ves capì. Vue la mon dos volti sante nestre e gurizze ossur, e parchest pontebe chiante il mio chiant ch'ai ven dal cur. Tu ten condi che montagne là ogni clap le tombe e altar, la rosade che la bagne a rinfreschie il sang flui chiar. Cul pinsir sun che montagne l'ingurizze al braz, al par, nel Friul che nus compagne, saludin, Triest e il mar. E venne l'ordine di avanzare. L'ombre nere si levarono dai lati della strada, i lampi illuminarono la selva dei fucili, e il reggimento si sparse pei campi come un volo d'uccelli verso l'aurora. Chi sul Calvario viveva ancora, tra le vampe, tra i ruggi e gli urli, tra le fosche fumate alte come piramidi, tra gli stormi di proiettili che simili a sinistri uccelli invisibili si incrociavano, stracciavano l'aria come una tela, fischiavano, piombavano giù a mordere i vivi, a mordere i morti, sui crogiuoli bollenti delle trincee. La mia divisione viveva, pronta dodicesima, divisione di bronzo e l'ora. Oh mie belle brigate, brigata Casale, brigata Pavia, undicesimo, dodicesimo, ventisettesimo, ventottesimo fanteria, e l'ora della rivincita. Ogni fante è proteso, ogni ufficiale è davanti ai suoi fucili, i colonnelli estatici, muti, stanno per dare il segno ai reggimenti. Nel cielo passano ombre e ombre, ombre di mamme, ombre di figli, ombre di giorni lontani d'adolescenza, visi amati, mani sante, carezzevoli su tutte le facce, parole d'amore, aliti di labbra, gesti religiosi, e l'ultimo addio, il consolo dei vivi ai morituri che partono, che vanno verso i confini della vita terrena, verso la luce, verso la gloria. Pronta dodicesima, divisione di bronzo, e l'ora. E tutte le baionette fioriscono sulle trincee, tutta la selva di punte ondeggia, si muove, si butta sul monte, travolge gli austriaci, rigettandoli oltre le cime, scaraventandoli giù a precipizio dentro l'isonzo. Sei nostra, sei nostra, sembra gridare l'assalto. La città è apparsa, apparsa a tutti nel piano dalle vette raggiunte, e tende le braccia e chiama lì prossima, tutta rivelata, nuda e pura nel sole di Ferragosto, e libera, libera, sotto la cupola celeste del cielo d'Italia, sotto le giurie, le ultime torri smaglianti della patria. Thank you. che il sang che me n'advie la lusinz al mar lontan, un riu lung par qualche mie le sangnestri sang furlan, e sul plaf fra tanti spenis pefame paltet piardu miec il sang des nestris venis i gravons nus han bevu. Primevere benedete le tantim che ti spietin, fa sflorì la nestretiere di un biel manto verdulin. Cusì quant la memurose va tal niez dal suo giardin, anche ie sarà un'erose, mi dirà vencani nin. Chiaris che stelis, chiare che lune, e seis ben bielis, c'è firmament dut risplendente. L'aiar quiete, dome ogni tanto un zefiret va svintulant roses e flors di mil color. Ie primevere innamorade, svole lizere, spandint rosade cu la zumiele palata viele. Cidin, cidin, ven iul roiuz, ali vicin son iu celuz, indurmidiz, in tai lorni. Araqueiti voi gli stelis dal gran prad al firmament, iempli il zei culis pluibieli, e po torni dal moment. Plan planchin, une par une vie pegnotue la cirini, mi farai prestà da lune la sossesule da rini.